America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, ben ritrovati ad America 24 dopo la pausa estiva da New York. Mario Platero, ricordate questo passaggio di qualche tempo fa? Lei è pronto ad andare in Arizona, è pronto a lasciare Bergamo e andare in Arizona con la famiglia. Domani mattina, guardi. Chi è che vuole venire da domani mattina in America? Beh, è Facchinetti, il camionista di Bergamo, che ci scrisse una lettera e che è pronto a mollare tutto in Italia per venire con la famiglia, per dare un futuro migliore alla sua famiglia in America. Beh, da allora molte cose sono cambiate. L'America ha avuto un downgrading da Standard & Poor's e anche lei in crisi tutto sommato debitoria. Il mercato ha sofferto. Si comincia a parlare di declino americano. Non so se questo sia vero o falso, secondo me è meno vero di quello che dicono molti dei nostri giornali in Italia, ma di questo tema vorrei occuparmi con la riapertura del programma. E dunque comincio con un ospite d'eccezione che conosce bene l'America e con cui potremo parlare così delle ambizioni, delle aspirazioni di Facchinetti, ma anche un po' di quella che è stata la sua esperienza con l'America. Buongiorno Giuseppe. Ciao Mario, allora, come stai? Bene, bene, noi ci siamo sentiti in varie occasioni, tu mi hai coinvolto così in delle manifestazioni canore, quindi... Ho esaltato le tue grandissime qualità e poi devo correggerti, non è che conosco bene l'America, diciamo sono appassionato di America, che è un'altra cosa, sono un grande innamorato dell'America. Cominciamo intanto dalla tua passione per l'America, come nasce? La mia passione dell'America nasce dal fatto che all'università il mio professore di storia delle dottrine politiche mi ha praticamente fatto studiare a fondo Alexis de Tocqueville e dunque mi sono appassionato soprattutto alla democrazia americana, al funzionamento della democrazia americana. Si parla molto per esempio in questi giorni, come sai, di lobby in Italia. Ecco, io sono stato uno dei pochi con il professore di diritto costituzionale anglo-americano, un insegnamento nuovo che all'epoca c'era, e sto parlando all'inizio degli anni 90, all'Università di Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche a Roma, a fare un piccolo studio su come funzionano le lobby negli Stati Uniti e come invece non sono regolamentate in Italia. Dunque mi sono appassionato soprattutto all'Università di America. E c'è anche un côté, come dire, al di là di quello politico, intellettuale di cui parleremo, c'è anche un côté emotivo che ti lega all'America? Ma il côté emotivo è legato soprattutto alla Maratona di New York, come sai, cioè è legato alla mia pseudo attività di maratoneta e dunque sono venuto più volte a New York a fare la maratona e il côté emotivo è legato sia a questo sia al fatto che negli Stati Uniti sono residenti molti dei miei più cari amici. Raccontaci che cos'è correre la maratona a New York, perché deve essere... Correre la maratona di New York è l'esperienza più bella, che però secondo me va fatta poche volte e poi deve restare nel ricordo. Cioè io per esempio non riesco a capire chi la corre ogni anno, perché in fondo qua ripetendolo ogni anno diventa quasi monotona. Ci sono persone che io conosco a partire da Linus e altri che la corrono ogni anno, secondo me perde un po' di fascino. Io l'ho corsa due volte e quelle due volte mi rimangono impresse per sempre. Perché? Se la corressi ogni anno secondo me diventerebbe come correre la maratona, una qualsiasi maratona nel mondo. Ecco, ma cos'è che ti è rimasto impresso di quella? La partenza dal ponte? Io, come sai e come hai visto, la maratona non la corro, quindi dimmi cosa ti è rimasto impresso. Cosa mi perdo? La maratona di New York è bella soprattutto nei giorni precedenti, quando uno la corre, almeno io che la corro, la soffro e basta, ma nei giorni precedenti vedi la città che partecipa all'evento e sei accolto a New York come fossi una sorta di eroe, di protagonista, anche se poi non sei, diciamo, il professionista, non sei quello che vince, ma non ha importanza. Per il newyorkese sei protagonista comunque. Ecco, i giorni precedenti sono quasi più affascinanti del giorno della maratona. Tu, Giuseppe, ci stai parlando in fondo di una serie così di stimoli positivi che vengono anche dall'esperienza della maratona, ma che ti sono venuti anche ovviamente dallo studio che hai fatto di De Tocqueville, che ha spiegato la democrazia americana all'Europa e ha spiegato in qualche modo il sogno americano all'Europa e quello che l'Europa non è riuscita a fare con il fallimento poi della rivoluzione francese. Dunque, tornando al nostro protagonista Facchinetti che vuole venire qui, ci sono questi valori americani, da questa sensazione di entusiasmo, di contagio, di passione per la maratona, fino a questo sistema che regge da oltre 200 anni e tutto sommato continua a reggere nonostante le difficoltà, ci sono delle ragioni per cui secondo te questo signor Facchinetti dovrebbe o non dovrebbe venire in America? Beh, l'unica cosa che posso dire al signor Facchinetti, che non conosco, ma di cui ho sentito parlare, ho sentito come ne avete parlato e quelli che sono i suoi sogni, soprattutto per la sua famiglia, è quello però di non illudersi. Cioè, il sogno è giustificabile, ha delle basi concrete, perché effettivamente se uno ha voglia di fare, le possibilità che ci sono in America sono molto più alte rispetto ad altri paesi, però ecco, l'America non è un posto dove ci sono poi scorciatoie, dove ci sono paracadute, dove c'è sempre qualcuno che ti protegge, insomma, o riesci o non riesci, per cui questo Facchinetti dovrebbe considerare bene. Ecco, però per uno che lavora duro, e lui mi è sembrato uno che lavora duro, poi c'è il reward, c'è il premio, ecco, tu hai il polso del nostro paese perché ogni giorno sei proprio nel vortice di quello che è il dibattito nostrano, anche su questioni così politiche, di gente insoddisfatta, gente che vuole scappare, gente. Però c'è l'altra faccia della medaglia, cioè da questa parte dell'Atlantico chi arriva può anche per merito andare avanti rapidamente. Beh, io penso di sì, può andare avanti rapidamente, può costruirsi delle fortune, può costruirsi il suo percorso professionale in maniera un po' più limpida, diciamo, rispetto all'Italia, però ecco, non ci sono poi tutte quelle tutele magari che ci sono in Italia, non c'è il sindacato forte come in Italia, è un mercato molto più aperto e dunque è facile la salita, ma è facile anche la caduta, per cui Facchinetti, io capisco il tuo sogno, lo condivido, portalo fino in fondo, prendo per esempio queste cose, di andare in America e poi sentirti italiano, insomma. Secondo te Tocqueville avrebbe voluto un sindacato forte in America e tutta una serie di protezioni, di rigidità strutturali di cui oggi stiamo parlando e che in realtà dovrebbero essere in qualche modo o eliminate o diminuite? Secondo me all'epoca non ci pensava, insomma, all'epoca non pensava al modo di evoluzione in questa società, comunque penso di sì, che avrebbe voluto sicuramente un sindacato un po' più presente in America rispetto a quello che ha adesso. Saltando completamente di palo in frasca, Giuseppe, Vittorio Zucconi, giornalista, sì, grande corrispondente che scrive da qua, eccetera, l'ho visto l'altro giorno, mi ha detto, tu l'hai attaccato un giorno, ha detto, ma quello lì dice soltanto delle, e io essendo diverso da te, poi quella parola non la dico naturalmente. Perché poi, Non ho detto questo. Allora, volevo chiarire così, perché siete tutti e due amici miei, allora voglio capire, perché poi lui la usa nella sua trasmissione. Io non ho detto questo, io ho detto, rispondendo ad un ascoltatore, poi l'ho spiegato anche in radio, mi dispiace perché io conosco Vittorio, figuriamoci se posso attaccare qualcuno senza che quella persona sia presente, così in maniera anche illogica e comunque senza una ragione ben precisa. Io ho semplicemente detto, un ascoltatore mi stava parlando di una trasmissione di Zucconi in cui parlava di certe cose e io gli ho risposto, ma che ce ne frega di quello che dice Vittorio Zucconi, nel senso che non era l'argomento della discussione, non era l'argomento della serata, non mi ricordo qual era, ma tutto era dare un attacco personale a Vittorio Zucconi, lui l'ha interpretato in questo modo, gliel'hanno fatto sentire in questo modo e poi lui mi ha risposto dicendo quello non ha nemmeno fatto la quarta elementare o cose di questo tipo, insomma, è una polemica assurda, francamente. Sì, assurda e credo finita, perché poi lui in realtà, che è un vecchio marpione, la sfrutta e la fa sentire così come gag nella sua trasmissione. Adesso ma gli sì, diremo ma di togliere. Va tutto bene, però va tutto bene, io l'ho spiegata anche in diretta da me, ho spiegato che non era un attacco personale. Figuriamoci se era, ripeto, un modo di rispondere ad un ascoltatore, volevo dire che non era importante in quel momento quello che diceva Vittorio Zucconi in una trasmissione, punto e basta. Giuseppe, accenna una canzone, la tua canzone preferita americana. Born in the USA, born in the USA, piccolo accenno. Fantastico, quando arrivi andiamo, spero che tu venga presto perché è un po' che non ti vedo da queste parti, qua ci sono cucine di ogni genere e dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che in America, a New York soprattutto, si mangia benissimo. Ecco, quando tu vieni qua, che cibo, che tipo di cucina cerchi? Io adoro due posti. Due cucine, diciamo, completamente diverse l'una dall'altra. Adoro le classiche steakhouse americane e adoro i ristoranti orientali, in particolare un posto coreano a New York, un piccolo quartiere coreano di New York, dove fanno dei ravioli, chiamiamoli così, straordinari. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Tom Morello, musicista, attivista politico, pubblicherà una serie a fumetti disegnata dalla sua penna. Il primo numero di Orchid sarà pubblicato il 12 ottobre e l'artista ha anche organizzato, scritto, promosso una colonna sonora per ogni uscita. E dunque di Tom Morello ascoltiamo Alone Without You. Sick of waiting and praying and hoping, sick of the cold whispered dreams and not knowing, sick of the strength that it takes to keep going, sick as I'm losing this fight and it's showing. I, unforgivable but true. I, I'm alone without you. Sick of the fear and sick of the cold. Sick as it's worse for the weak and the old. With two broken legs I'm climbing this hill. Sick of deciding who gets what in my will. Out of town, it's sick as I'm pulling but still sinking down, it's sick as I can't turn this whole thing around, it's sick as I'm too weak to hunt somebody down, sick as this hammer and litany of sins is banging and burning, I can't stand the dim, sick as the darkness keeps seeping on in, sick to be leaving my family and friends. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!